Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 25 gennaio, buongiorno da Caterina Bombarda e da Ignazio De Francesco, da Montesole, buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno Caterina e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano attraverso la radio, attraverso la televisione. Esatto, Radio Città Fujiko, siete sintonizzati, canale 103.1 e sulla televisione al canale 636. E poi dobbiamo anche aggiungere, se posso, saluto non solo agli amici che stanno nella casa circondariale di Bologna temporaneamente, ma anche nelle altre case circondariali della regione che hanno cominciato, abbiamo sentito, ad ascoltarci ogni giorno. Esatto, perché attraverso la televisione riusciamo a raggiungere anche le case detentive dell'Emilia Romagna. Questa è un'ottima cosa per noi, per dare veramente la possibilità a tutti di potersi intrattenere ritornando a quelle che erano le attività prima della pandemia, perché Liberi Dentro nasce in questo periodo difficile l'anno scorso, quando si è bloccato tutto quanto all'interno delle carceri, e ha riportato le voci dei vari insegnanti, volontari, operatori all'interno delle carceri attraverso la radio e la televisione. E noi oggi siamo qui con voi, apriamo sempre con la cronaca bianca e la notizia che vi leggo oggi riguarda sempre naturalmente il vaccino, perché è il tema forte delle prime pagine dei giornali di questa settimana. E il titolo di questo articolo che leggo dal sito di chiesacattolica.it è: Vaccino, comunità Giovanni XXIII sia prioritario per disabili detenuti, di Amedeo Lo Monaco. Ed è un articolo interessante perché dopo l'appello di Liliana Segre, molto sentito, di Mauro Palma, il garante nazionale dei detenuti, anche la comunità Don Oreste Benzi si è allineata su queste posizioni e dando appunto la priorità al vaccino per chi si trova in condizioni di fragilità sociale. E tra le varie realtà di fragilità non ci sono chiaramente soltanto le persone all'interno delle carceri, ma ci sono anche le persone disabili che loro e le loro famiglie hanno sofferto molto di più per certi versi durante questa grave pandemia, questo isolamento che ha colpito tutti quanti. E quando parla dell'altra categoria coinvolta, quindi delle persone detenute, dice questo il referente della comunità Don Oreste Benzi, dice che anche loro, i carcerati, ci stanno chiedendo di diventare voce presso il governo perché magari dopo i disabili possono avere un'attenzione particolare, e quindi diamo voce a queste voci. E adesso Ignazio, io con te invece vorrei andare a notizie sul nostro paese, perché c'è una notizia importante che riguarda una premiazione, vero? Esatto, quando parliamo di marocchini, di tunisini, di libici, di algerini, tante persone, nazionalità che si trovano nelle case circondariali, pensiamo che siano sempre dall'altra parte del Mediterraneo, ma in realtà sono così parte della nostra vita queste popolazioni nella costruzione di una comunità comune, che dobbiamo pensarli come persone che abbiano un ruolo attivo e anche di grande onore nella vita della comunità. Allora, vedete questa notizia che ci arriva dalla fine dell'anno, il presidente, l'anno scorso, 2020, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito motu proprio 36 onorificenze al merito della Repubblica Italiana, cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale. Più della metà, 21 su 36, sono donne, e la più giovane ha 18 anni. Ma la sorpresa è una persona di origini marocchine. È nato in Marocco, ma palermitano di adozione, Rashid Berradi, che ha ottenuto l'onorificenza per la sua appassionata promozione di una cultura della legalità e per il contributo al contrasto all'emarginazione sociale. Questa è la motivazione della premiazione. È appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Palermo ed è stato un protagonista dell'atletica leggera italiana. Ha vinto tante gare e noi siamo veramente Rashid, se ci ascolti, e chissà, magari ti cerchiamo e ti intervistiamo, Dai, facciamolo. Sì, nella lo nostra trasmissione. facciamo, Non mettiamo veramente. in conto, Rashid. Sì. Bene, allora adesso è il momento di lanciare la musica. E cosa lanciamo oggi, Ignazio? Dunque, sempre Wadih Safi, questa settimana, il nostro cantante, con una canzone di tema religioso. Allah, Ta'ud, torni a Dio, tu che hai perso la via di casa. Musica. على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله بعدك انت يا غالي مالي احباب غير الله من بعدك انت يا أحباب غير الله مالي أحباب غير الله Rieccoci sulle note di Wadih Al-Safi che ascolteremo durante questa settimana. E adesso abbiamo parlato appunto del presidente Mattarella, da sempre molto sensibile ai temi delle virtù anche dei cittadini da premiare. Quindi abbiamo appena parlato di Rashid e che lo intervisteremo. Però adesso è il momento di parlare di cultura araba e lo facciamo sempre con te, Ignazio, continuando sul filone di ieri. Quindi stavamo parlando della pazienza, questa virtù. Esatto, e pian piano la scopriremo, no? Ieri abbiamo visto che si diceva che Al primo posto. rispetto alla fede è la testa, quindi viene prima la pazienza, poi la fede, poi stranissimo. E oggi dice una cosa ancora, questo detto ancora più avanzato, dice: Al-sabru jama'ul amri, wa nizamul hazmi, wa da'amatul aqli, wa badrul khair, wa hila man lahiya Allahu. Allora, la pazienza è l'insieme di tutto. Tutto sta dentro la pazienza. È l'elemento della decisione, della forza e anche della razionalità. E dice questa frase che mi piace bellissima: Wahila min lahila lahu, e cioè lo stratagemma di chi non ha stratagemma. È veramente molto forte questa idea che quando anche si è poveri, quando si è in una situazione di grossa difficoltà e non si hanno tante vie di uscita, vie di scampo, via di scappare, via di risolvere, non c'è questa hila, è lo stratagemma, allora lo stratagemma è pazientare, attendere che le cose vadano meglio. E poi dice ancora che awwalu daraja al-ihtimam, thumma al-tayakhsu, tumma at-tathabbut, tumma tasabbur, e allora tumma ar-rida, wa huwa nihayatu fil halal. Allora fa tutti i gradi, questo è tipicamente islamico e anche arabo, i gradi della virtù. Si parte con l'attenzione, poi viene una certa stabilità interiore, poi si arriva al compiacimento. E dice che questo, cioè il compiacimento, il rida vuol dire l'accettazione delle cose. E c'è un detto arabo, e anche in italiano lo conosciamo molto bello: se le Diccelo. cose non vanno come vuoi, vuoi come vanno. E questo è la rida, cioè essere contento di come vanno le cose. Comunque. E io invece ti do in un minuto il racconto di una notizia di una persona che invece si definisce di aver perso la pazienza a un certo punto. Ed è Ornella Favero, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, che ha scritto lei in questo articolo che cito: Subito il vaccino nelle carceri, e, su Ristretti Orizzonti, in cui lei dice che tutte le volte che sente parlare, lei parla di questo spartiacque che si è creato tra il carcere e la società libera, soprattutto a partire dalla pandemia. E tutte le volte in cui sente parlare dell'assimilazione al fatto che anche noi, in qualche modo, liberi cittadini, abbiamo come vissuto da reclusi, lei si spazientisce perché lei dice: Non è vero, non è così. Io da tanti anni il carcere lo frequento, conosco le persone detenute, svolgo il mio lavoro e vi posso assicurare che non c'è nessun posto che possa assomigliare alle carceri fuori dalle carceri stesse. Quindi appoggiamo questo appello di Ornella Favero con forza. Forse abbiamo gustato fuori in certe situazioni, pensiamo subito, soprattutto i ragazzi, anche i bambini, cosa vuol dire non essere liberi di fare quello che si vuole, di andare al cinema, di andare nei centri sportivi. Sono delle piccole, così, Privazioni, ma piccole passioni di quello che però veramente la Favaro ha ragione, nulla è confrontabile con le limitazioni che si hanno nella vita ristretta. E a proposito del fatto che a nostro modo abbiamo vissuto qualche piccola penalizzazione, io lancio un brano musicale che si intitola A modo mio di Lucio Dalla. E noi con te, Ignazio, ci rivediamo domani. Grazie. Risentirci, arrivederci. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni, io li ho, io te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. Eccoci qui con noi con un nuovo ospite di Liberi Dentro Eduradio. Siamo con Maria Luisa Pozzi, che è una volontaria dell'associazione AVOC per il carcere, che da tantissimi anni, ormai già dal 93, opera all'interno del carcere della Dozza di Bologna con attività per migliorare le vite dei detenuti e favorirne il recupero e il reinserimento sociale. Ma con i volontari del carcere si fanno tantissime attività. Dalle attività per favorire il reinserimento sociale una volta finita la detenzione a quelle ricreative anche durante la detenzione. Una tra queste sono i laboratori, vero Luisa, di scrittura creativa, scrittura di se stessi anche. E in questo momento in cui non possiamo purtroppo ancora entrare, ma possiamo fare cose a distanza, allora abbiamo pensato di fare un po' di letture anche noi, di cose molto semplici. Infatti, con te leggeremo gli haiku giapponesi, che sono delle forme poetiche letterarie molto semplici, però anche molto significative. E io oggi te ne proporrei uno, così anche i nostri ascoltatori magari ci pensano, possono anche proporci qualcosa loro. E uno di questi haiku che mi ha molto colpito fa così: il tetto si è bruciato, ora posso vedere la luna. Cosa mi dici? Ma dico che è un'immagine molto bella, è un'immagine, e come tutte le immagini è ambigua, permette diverse letture, diverse interpretazioni, diversi pensieri. E la cosa che viene a me è questa: il tetto è bruciato e adesso posso vedere la luna. È un po' una situazione esistenziale, nel senso che il tetto è bruciato è una cosa triste, dolorosa, ma rispetto a questa situazione io posso non concentrarmi su questa situazione, ma spostare lo sguardo alla luna, a questa cosa misteriosa che mi illumina e mi fa vedere le cose giuste. Allora, questo spostamento dello sguardo è fondamentale, soprattutto in questo momento in cui siamo circondati da Covid e notizie molto dolorose. Ecco, questo occorre spostare lo sguardo e spostare lo sguardo sulle cose belle, però credo che in carcere questo stia già succedendo, perché le persone ovviamente si tutelano, perché abbiamo ricevuto come AVOC due lettere, una di un giovane uomo albanese, il quale ha detto sì, abbiamo paura del Covid, però io sono stato ammesso all'università e quindi questo è la sua. Ha spostato lo sguardo. Come potremmo aiutare i nostri ascoltatori che, come sai, sono fra la città e il carcere, e quindi ci sono anche i cittadini di Bologna in particolare, a pensare alle cose belle della vita con un brano musicale? Cosa ti chiedo io, se ti chiedessi di lanciare un brano adesso, cosa mi diresti? Io sono un po' una vecchia befana, però a me consola molto, rallegra La vita è bella, di Di Nicola Nicola Piovani. Piovani. Lanciamolo. Lanciamolo, grazie, bello. le note di La vita è bella di Nicola Piovani, adesso riprendiamo con i nostri haiku, che come dicevo sono queste forme poetiche della cultura giapponese. E adesso Luisa te ne leggo un altro e fa così: mondo di sofferenza, eppure i ciliegi sono in fiore. Sì, un'altra immagine bellissima, di nuovo, da, come si può dire, che parla a tutti. Ovviamente le risposte delle persone che ascoltano che questo haiku possono essere diverse, però è la stessa logica di quell'altro, è lo stesso atteggiamento alla vita. Allora io cito un'ulteriore lettera di un nostro detenuto, nostro nel senso che ha partecipato come quello precedente ai nostri laboratori, si chiama Luciano, e lui dice: sì, di nuovo il Covid, sentiamo notizie, eccetera, eccetera, però io sono in una cella da solo e quindi credo che possa essere un privilegio non dover condividere la cella. E poi sento voi e mi rasserenate, perché voi, come al solito, create un ponte fra noi dentro e le persone fuori. Quindi Luciano, come il giovane uomo di prima, il nostro amico albanese, ha spostato lo sguardo dal Covid, dalle cose brutte, alle cose belle che comunque ci sono. Occorre un po' di pazienza, occorre andare a cercare, però poi lo troviamo, troviamo qualcosa di bello. Perché la cosa che fa paura a me è anche un altro detto, non mi ricordo di chi sia, ero felice e non lo sapevo. Sì, a questo sempre avere coscienza, guardare al presente delle cose che si hanno, ma questo vale per tutti. Vale certo, per tutti. Stare nel qui e ora e guardare quello che la vita comunque ti offre. Certo. Cosa ne dici, Luisa? Invitiamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici a scriverci, e lo possono fare scrivendoci a liberidentro.eduradio@gmail.com se hanno accesso alla casella alla casella di mail, oppure alla casella postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna. Noi aspettiamo tutte le loro lettere con veramente trepidazione. E adesso, siccome è finita, dobbiamo salutarci e ci rivediamo la prossima settimana sempre con te, Luisa. Lancio io un brano musicale, perché mi hai dato l'aggancio sulle note di La vita è bella, un brano dei Coldplay, Viva la vida. Grazie, alla prossima. Alla prossima, grazie a tutti, grazie, grazie. Rieccovi sulle note musicali del brano di Viva la Vida dei Coldplay, ci salutiamo anche oggi e ci ridiamo appuntamento a domani con un nuovo ospite, anzi una nuova ospite che si chiama Agnese Drusiani, giovanissima, lei si occupa di promozione della salute all'interno dell'equipe sanitaria dell'ASL di Bologna, all'interno del carcere della Dozza e ci parlerà appunto di promozione della salute. Con lei faremo questa rubrica tutta dedicata alla nostra salute. E vi ricordiamo sempre di scriverci all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40126 Bologna e all'indirizzo di posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com, dove vi ricordiamo potrete fare i vostri suggerimenti, le vostre domande e scriverci in libertà. A domani!